Ventesima traccia. Ma la vista di Mr. Knightley, tra i più intenti, presto distorse gran parte della mente di Emma, ed essa si immerse in riflessioni intorno ai sospetti di Mrs. Weston, che i dolci suoni delle voci congiunte interruppero solo qualche momento. Le sue obiezioni alle nozze di Mr. Knightley non si attenuarono affatto. In quel matrimonio essa non vedeva che del male. Avrebbe causato un gran disappunto a Mr. John Knightley e, conseguentemente, a Isabella. Un vero torto ai bambini, un mutamento quanto mai mortificante e un danno materiale per loro tutti. Una grandissima diminuzione del benessere quotidiano del padre di lei e, quanto a se stessa, non poteva assolutamente tollerare l'idea di Jane Fairfax all'abbazia di Donwell. Ed ecco che Knightley si voltò e venne a sedersi presso di lei. Dapprima parlarono solo dell'esecuzione. L'ammirazione di lui era certo molto calda. Eppure essa pensò che se non fosse stato per Mrs. Weston non l'avrebbe affatto colpita. A mo' di pietra di paragone, tuttavia, essa cominciò a parlare della sua gentilezza ad accompagnare in carrozza la zia e la nipote. E benché la risposta di lui fosse nel senso di tagliar corto, essa credette vedervi solo un'avversione a indugiarsi su un proprio atto di cortesia. «Spesso mi rammarico», disse lei, «di non osare di rendere la nostra carrozza più utile in tali circostanze. Non che io non ne abbia il desiderio, ma sapete quanto mio padre riterrebbe impossibile che James dovesse attaccare per tal motivo». «Non c'è dubbio alcuno, non c'è dubbio alcuno», egli rispose, «ma dovete desiderarlo spesso, ne son certo», e sorrise con tale apparente piacere per tal convinzione che essa non esitò ad andare un passo avanti. «Questo dono dei Campbell», disse, «e questo pianoforte è stato un pensiero molto gentile». «Sì», rispose lui, e senza mostrare il minimo imbarazzo, «ma avrebbero fatto meglio ad avvertirla». Le sorprese sono cose sciocche, il piacere non è aumentato e l'imbarazzo è spesso considerevole. Mi sarei aspettato più assennatezza da parte del colonnello Campbell. Da quel momento Emma avrebbe potuto mettere la mano sul fuoco che Mr. Knightley non aveva avuto nulla a che fare col dono dello strumento. Ma se egli fosse interamente libero da un particolare attaccamento, se non vi fosse una vera e propria preferenza, rimase dubbio per un altro po'. Verso la fine della seconda canzone di Jane, la sua voce perdette chiarezza. «È sufficiente», disse lui quando cessò il canto, pensando ad alta voce. «Avete cantato abbastanza per una sera, ora riposatevi». Tuttavia, Miss Fairfax venne tosto pregata di cantare ancora. «Ancora un'altra». Non avrebbero voluto stancare Miss Fairfax in alcun modo, chiedevano solo un'altra canzone. E si sentì dire a Fran Churchill, «Credo che potreste cantare questa senza sforzo. La prima parte è così leggera e nella seconda parte sta la forza del canto». Mr. Knightley si rabbuiò. «Quel tipo», disse indignato, «non pensa che a far bella mostra della propria voce, questo non va». E toccando Miss Bates, che in quel momento passava vicina, «Miss Bates, siete pazza a far che vostra nipote si renda rauca a forza di cantare a questo modo? Andate a interporvi, non hanno nessuna pietà di lei». Miss Bates, nella sua genuina ansia per Jane, non poté neppure indugiare per i ringraziamenti, si fece avanti e mise fine al canto. Così cessò la parte musicale della serata, perché Miss Woodhouse e Miss Fairfax erano le sole signorine esecutrici. Ma non erano passati 5 minuti che la proposta di ballare, nata non si sa da chi, fu così efficacemente appoggiata da Mr. e Mrs. Cole che in 4:48 la stanza venne sgombrata per ottenere lo spazio necessario. Mrs. Weston, insuperabile nelle sue contraddanze, si sedette al piano e attaccò un irresistibile valzer. E Frank Churchill, avvicinandosi a Emma con la più garbata galanteria, prese la sua mano e la condusse in testa. Mentre mentre aspettavano che gli altri giovani formassero coppie, Emma trovò tempo, malgrado i complimenti che riceveva sulla sua voce e sul suo gusto, di guardarsi attorno e di vedere che cosa faceva Mr. Knightley. Questa sarebbe stata una prova. Di solito egli non ballava. Se ora fosse stato molto svelto a impegnare Jane Fairfax, si sarebbe potuto pronosticare qualcosa. Non si fece avanti prontamente. No, stava parlando a Mrs. Cole. Guardava la sala con indifferenza. Jane fu richiesta da un altro e lui stava ancora parlando a Mrs. Cole. Emma non era più allarmata per Henry. I suoi interessi erano ancora saldi e aprì la danza con brio e piacere genuini. Non si poterono mettere insieme più di 5 coppie, ma la rarità e la subitaneità della danza la resero deliziosa ed Emma si trovò soddisfatissima del suo compagno. Era una coppia degna d'essere guardata. Due danze, sfortunatamente, fu tutto ciò che poté concedersi. Stava facendosi tardi e Miss Bates si preoccupava di tornare a casa per via della madre. Perciò, dopo alcuni tentativi per ottenere di ricominciare, furono obbligati a ringraziare Mrs. Weston, a prendere un'aria dispiacente e a smettere. «Forse è meglio così», disse Fran Churchill, mentre accompagnava Emma alla sua carrozza. «Avrei dovuto invitare Miss Fairfax. E il suo modo languido di ballare non mi sarebbe andato a genio dopo il vostro». Emma non si pentì della sua degnazione nel recarsi dai Cole. La visita le offrì molti piacevoli ricordi il giorno dopo, e tutto quello che si poteva supporre che essa avesse perduto rinunziando a un dignitoso appartarsi doveva essere ampiamente compensato dallo splendore della popolarità. Doveva aver incantato i Cole, brava gente che meritava d'essere fatta felice, e aver lasciato dietro di sé un nome che non si sarebbe spento presto. La felicità perfetta non è comune, neanche nella memoria, e c'erano due punti sui quali essa non si sentiva del tutto tranquilla. Dubitava se non avesse trasgredito al suo dovere verso il proprio sesso, tradendo a Fran Churchill i suoi sospetti circa i sentimenti di Jane Fairfax. Non era stata una cosa corretta, ma l'idea le era venuta con tanta forza che non poteva non sfuggirle di bocca, e quell'annuire di lui a tutto quel che lei aveva detto era un complimento al suo acume che le rendeva difficile d'essere sicura che avrebbe dovuto tenere la lingua a posto. Anche l'altro motivo di rammarico si riferiva a Jane Fairfax, e su questo non aveva dubbi. Senza infingimenti e mezzi termini, lamentava la propria inferiorità nel suonare e nel cantare. Si dolse di cuore della neghittosità della sua fanciullezza e si sedette al piano e fece vigorosi esercizi per un'ora e mezza. Fu interrotta dall'arrivo di Harriet, e se le lodi di Harriet avessero potuto soddisfarla, si sarebbe potuta consolare presto. «Oh, se io potessi suonare bene come voi, Miss Fairfax!» «Non ci classificate insieme, Harriet, c'è tanta differenza tra il mio modo di suonare e il suo, quanto da una lampada al sole!» «Oddio, credo che voi suoniate meglio, credo che voi suoniate perlomeno bene quanto lei!» «Sono sicura che mi piacerebbe di più stare a sentire voi. Tutti dissero ieri sera quanto suonavate bene. Tutti quelli che se ne intendevano devono aver sentito la differenza. La verità, Harriet, è che la mia esecuzione è abbastanza buona da meritare elogio, ma quella di Jane e Fairfax è assai superiore. Beh, io penserò sempre che voi suonate bene quanto lei». O che se c'è una differenza nessuno riuscirebbe a scoprirla. Mr. Cole ha detto che avevate molto gusto e Mr. Fran Churchill ha parlato un bel po' del vostro gusto e ha detto che egli apprezzava il gusto molto più dell'esecuzione. Ah, ma Jane Fairfax ha l'uno e l'altra, Harriet. Siete sicura? Mi sono accorta che era una brava esecutrice, ma non sapevo che avesse gusto. Non ne ha parlato nessuno. E io poi detesto il canto italiano, non se ne capisce una parola. Inoltre se suona proprio tanto bene, sapete, non è più di quanto è obbligata a fare, perché dovrà insegnare. Le Cox si chiedevano ieri sera se sarebbe entrata presso una grande famiglia. Che aria vi è parso che avessero le Cox? La solita, molto volgare. Mi han detto qualcosa, disse Harry piuttosto esitante, ma non ha importanza. Emma fu obbligata a chiedere che cosa gli avessero detto, sebbene temesse di veder rispuntare fuori Mr. Elton. E mi han detto che Mr. Martin pranzò con loro sabato scorso. Oh, venne dal loro padre per affari, ed egli lo pregò di rimanere a pranzo. Oh, han parlato un bel po' di lui, specialmente Anne Cox. Non ho capito quel che intendesse, ma mi ha chiesto se pensavo di andare a star là di nuovo l'estate prossima. Intendeva di essere curioso in modo impertinente, proprio da par sua. Ha detto che egli era molto piacevole il giorno che pranzò da loro. Sedeva presso di lei a tavola. Miss Nash crede che l'uno o l'altra delle Cox sarebbe felice di sposarlo. È probabile. Credo che siano, senza eccezione, le ragazze più volgari di Highbury. Harriet aveva commissioni da Ford. Emma ritenne prudente andare con lei. Era possibile un altro incontro casuale coi Martin, e nella sua presente condizione di spirito sarebbe stato pericoloso. Harriet, tentata da ogni cosa, influenzata da mezza parola, ci metteva sempre molto nei suoi acquisti, e mentre stava ancora chinato sulle mussole e non sapeva decidersi, Emma s'appressò alla porta per divertirsi. Non si poteva sperar molto dal traffico, neanche nella parte più affaccendata di Highbury. Mr. Perry, che passava in fretta, Mr. William Cox, che entrava nel suo ufficio, i cavalli della carrozza di Mr. Cole che tornavano dal farmotto, o uno sporadico fattorino postale su un mulo ostinato, erano gli spettacoli più animati che essa potesse attendersi. E quando i suoi occhi caddero sul macellaio col suo tagliere, su una linda vecchietta che tornava a casa dalle sue spese col cestino pieno, su due cani che si litigavano un sudicio osso e su una fila di bimbi che bighellonavano intorno alla piccola vetrina sporgente del fornaio occhieggiando il pan pepato, essa sapeva di non avere alcuna ragione di lamentarsi e si divertì abbastanza, abbastanza da rimanere presso la porta. Una mente vivace e tranquilla può soddisfarsi anche senza veder nulla, e non vede nulla che non le vada. Guardò verso la strada di Randalls. La scena s'allargò. Apparvero due persone. Mrs. Weston e il figliastro venivano verso Highbury, naturalmente per recarsi a Hartfield. Erano tuttavia sul punto di fermarsi da Mrs. Bates, la cui casa era un po' più vicina a Randalls del negozio di Ford, e stavano per picchiare all'uscio quando scorsero Emma. Immediatamente attraversarono la strada e vennero verso di lei. Il piacere del ballo del giorno prima sembrava conferire nuovo gusto all'incontro presente. Mrs. Weston la informò che andava a far visita alle Bates per sentire il suono del nuovo pianoforte. «Il mio compagno mi rammenta», disse lei, «che io ho assolutamente promesso a Miss Bates ieri sera che ci sarei andata stamani. Io non me ne ricordavo, non sapevo d'aver fissato il giorno, ma siccome lui dice di sì, vado ora». «E mentre Mrs. Weston fa la sua visita, spero», disse Frank Churchill, «di unirmi alla vostra comitiva e aspettarla a Hartfield se andate a casa». Mrs. Weston rimase delusa. «Credevo che saresti venuto con me, sarebbero molto liete». «Io sarei un impiccio, ma forse posso essere d'impiccio anche qui. Miss Woodhouse ha l'aria di non volermi. Mia zia mi allontana sempre quando fa le spese, dice che le urto i nervi. E Miss Woodhouse ha l'aria di dire lo stesso. Che debbo fare?» «Son qui non per faccende mia», disse Emma, «aspetto solo la mia amica. Probabilmente finirà tra poco e allora andremo a casa. Ma voi fareste meglio d'andare con Mrs. Weston a sentire il piano». «Ebbene, se lo consigliate voi, ma», con un sorriso, «se il colonnello Campbell si fosse servito da un amico trascurato e se risultasse che il piano ha un tono mediocre, che dovrò dire? Non sarò un aiuto per Mrs. Weston, potrebbe cavarsela benissimo da sé. Una verità sgradevole non otterebbe sulle sue labbra, ma io sono l'essere più inadatto del mondo per dire una cortese falsità. Non ci credo punto, rispose Emma. Son persuasa che voi potete essere non meno finto degli altri quando è necessario, ma non c'è ragione di supporre che lo strumento sia mediocre. Tutto al contrario, anzi, se intesi bene l'opinione di Miss Fairfax iersera. Vieni con me, disse Mrs. Weston, se proprio non ti secca, non dovremo starci molto. Poi andremo a Artil, seguiremo Miss Woodhouse e la sua amica Artil. Desidero sul serio che tu venga con me a fare questa visita. Sarà sentito come un tal riguardo, e credevo che tu intendessi venire. Egli non poté dir altro, e con la speranza d'essere compensato con Artil, tornò con Mrs. Weston alla porta di Mrs. Bates. Emma li osservò finché non furono entrati, e poi raggiunse Harriet al banco che la teneva avvinta, e cercò con tutta la forza della sua mente di convincerla che si desiderava mussola semplice, era inutile che ne guardasse di operata, e che un nastro azzurro, per bello che fosse, non si sarebbe mai accompagnato col suo disegno giallo. Alla fine tutto fu combinato fino alla destinazione del pacchetto. «Devo mandarlo da Mr. Goddard, signora?» chiede Mrs. Ford. «Sì, no, sì, da Mrs. Goddard. Già, ma il mio vestito di modello è Arfield. No, mandatelo a Arfield, per favore. Però Mrs. Goddard vorrà vedere la stoffa, e io potrei portare a casa qualunque giorno il mio vestito di modello. Ma bisognerà subito del nastro, sicché è meglio che vada a Arfield, almeno il nastro. Potrete fare due pacchetti, Mrs. Ford, non è vero? Non vale la pena, Harriet, di dare a Mrs. Ford il disturbo di fare due pacchetti. Non importa più. Non è per niente un disturbo, signora, disse la cortese Mrs. Ford. Oh, ma davvero, preferisco che sia un pacco solo. Allora, per favore, manderete tutto da Mrs. Goddard. Ma non so. No, credo, Miss Woodhouse, che tanto vale che io lo faccia mandare a Arfield e poi me lo porti a casa da me la sera. Che consigliate? Che non vi indugiate su questa faccenda neanche un altro mezzo secondo. Arfield, per favore, Mrs. Ford. Sì, sarà molto meglio, disse Harriet, completamente soddisfatta. Non mi piacerebbe affatto che fosse mandato da Mrs. Goddard. Delle voci si avvicinarono al negozio, o meglio una voce e due signore. Mrs. Weston e Miss Bates le incontrarono sulla porta. «Cara Miss Woodhouse», disse la seconda, «ho giusto attraversato la strada per chiedervi il favore di venirci a fare una visitina e di darci la vostra opinione sul nuovo strumento, voi e Miss Smith. Come state, Miss Smith?» «Molto bene, grazie. E ho pregato Mrs. Weston di accompagnarmi per essere sicura di riuscire. Spero che Mrs. Bates e Miss Fairfax stiano benissimo, vi ringrazio. Mia madre sta deliziosamente bene e Jane non si è presa un raffreddore la notte scorsa. Come sta, Mr. Woodhouse? Sono così lieta di sentire così buone notizie. Mrs. Weston mi ha detto che eravate qui. Oh, allora, ho detto io, devo fare un salto fuori. Sono sicura che Miss Woodhouse mi permetterà di fare un salto fuori e di pregarla di entrare. Mia madre sarà tanto felice di vederla, e ora che siamo una così bella compagnia non può dire di no. «Sì, vi prego», ha detto Mr. Franchurch, «varrà la pena di sentire l'opinione di Miss Woodhouse sullo strumento. Ma ho fatto io, sarò più sicura di riuscire se uno di voi verrà con me». «Oh», ha fatto lui, «aspettate mezzo minuto, sinché non ho finito il mio lavoretto. Perché, vorrete crederci, Miss Woodhouse sta lì ad accomodare il chiodino degli occhiali di mia madre», con la maggior cortesia del mondo. Il chiodino è venuto fuori, sapete, stamattina. Tanto cortese, perché mia madre non poteva servirsi degli occhiali, non se li poteva mettere. E, si è detto tra parentesi, ognuno dovrebbe avere due paia di occhiali, davvero. Così ha detto Jane. Intendevo portarli da John Saunders per prima cosa, ma una cosa o l'altra me ne ha impedita tutta la mattinata. Prima una cosa, poi l'altra, non si sa che, sapete. Un momento Patty è venuta a dire che credeva che il camino di cucina avesse bisogno di essere spazzato. Oh, ho fatto io, Patty, non venirmi a dare cattive notizie. Ecco che è uscito fuori il chiodino degli occhiali della tua padrona. Poi sono arrivate le mele cotte e ha mandate Mrs. Wallis per mezzo del suo ragazzo. Sono estremamente cortese e gentile con noi, Wallis, sempre. Ho sentito dire da alcuni che Mrs. Wallis può essere sgarbata e rispondere in modo molto scortese. ma noi non abbiamo trovato che le più grandi premure da parte loro. E non può essere per le nostre abitudini, perché che consumiamo di pane, lo sapete? Siamo solo in tre, oltre alla cara Jane adesso. Lei davvero non mangia nulla. E facciamo una colazione così misera che vi farebbe proprio paura se la vedeste. Io non oso far sapere a mia madre quanto poco mangia. Così dico una cosa e poi un'altra. E così si riesce a nascondere. Ma verso la metà del giorno, essa ha appetito e non c'è nulla che le piace tanto come queste mele cotte, che sono quanto mai salubri. Perché l'altro giorno colsi l'occasione di interrogare Mr. Perry. Mi capitò di incontrarlo per la strada. Non che io avessi prima dei dubbi, ho sentito tante volte Mr. Woodhouse raccomandare le mele cotte. Credo che sia l'unico modo in cui Mr. Woodhouse ritiene che il frutto sia interamente sano. Noi abbiamo tuttavia molto spesso lo sformato di mele. Patty fa eccellenti sformati di mele. Ebbene, Mrs. Weston, l'avete avuta vinta, spero, e queste signore ci faranno la cortesia di venire. Emma disse che sarebbe stata felicissima di far visita a Mrs. Bates e così via, e alla fine uscirono dal negozio, senza essere ulteriormente ritardate da Miss Bates, se non con «Come state, Mrs. Ford? Scusate, non vi avevo vista prima. Sento che avete un incantevole assortimento di nastri da Londra. Ieri Jane è tornata tutta contenta. Grazie, i guanti vanno benissimo, solo un po' troppo larghi al polso, ma Jane li prende». Di che cosa stavo parlando? Ricominciò essa appena tutti furono in strada. Emma si domandò su che cosa volesse fissarsi di tutto quel guazzabuglio. Dichiaro che non riesco a ricordarmi di che stavo parlando. Ah, gli occhiali di mia madre. Che cortesia da parte di Mr. Franchurchill. Oh, ha detto lui, credo di poter fissare il chiodino. Mi piace moltissimo un lavoretto di questo genere. E questo, sapete, ha dimostrato che egli è così. Davvero, devo dire che per quanto avessi sentito di lui prima e mi fossi aspettata, egli supera qualunque. Mi congratulo con voi, Mrs. Weston, molto caldamente. Egli sembra possedere tutte le virtù che il genitore più affezionato potrebbe. Oh, ha detto lui, posso fissare il chiodino. Mi piace moltissimo un lavoretto del genere. Non dimenticherò mai le sue maniere. E quando ho cavato fuori dalla credenza le mele cotte e speravo che i nostri amici avrebbero avuto la cortesia di gustarne, ho detto lui subito, non c'è nessun altro frutto che possa neanche lontanamente paragonarsi a loro, e queste sono le più belle mele cotte che io ho mai visto in vita mia. Questo, sapete, è stato così, e dai suoi modi sono sicura che non era un complimento. Davvero sono mele proprio deliziose, e Mrs. Wallis rende loro piena giustizia. Solo che non le facciamo cuocere più di 2 volte. E Mr. Woodhouse ci ha fatto promettere di farle cuocere 3 volte. Ma Miss Woodhouse avrà la bontà di non farne parola. Le mele sono della miglior qualità per essere cotte, senza dubbio. Tutte di Donwell, alcune della generosissima provvista fornitaci da Mr. Knightley. Ce ne manda un sacco ogni anno, e certo nessuna mela si conserva così bene come una dei suoi alberi. Credo che ne abbia 2. Mia madre dice che l'orto è sempre stato famoso quando lei era giovane. Ma l'altro giorno rimasi proprio confusa perché Mr. Knightley venne a farci visita una mattina e Jane stava mangiando quelle mele e ci mettemmo a parlare di esse. E lei disse quanto le piacevano e lui chiese se non eravamo alla fine della nostra provvista. «Sono sicuro che dovete esserci», disse. «Ve ne manderò un'altra scorta». Perché io ne ho molte di più di quante non ne possa consumare. William Larkins me ne ha fatte conservare quest'anno una maggior quantità del solito. Ve ne manderò delle altre prima che si guastino. E l'ho pregato di non disturbarsi, perché è realmente quanto alla fine della nostra provvista non avrei potuto proprio dire che ce ne fossero rimaste parecchie. In verità non ce n'era che una mezza dozzina, ma dovevano essere tutte tenute per Jane. E non potevo davvero permettere che me ne mandasse delle altre, tanto generoso era stato prima. E Jane disse la stessa cosa. E quando se ne fu andato, lei quasi litigò con me. No, non dovrei dire che si litigò, perché non abbiamo mai avuto una lite in vita nostra, ma era proprio desolata che io avessi confessato che le mele erano quasi finite. Desiderava che io gli avessi fatto credere che ne avessimo ancora un bel po'. Oh, feci io, mia cara, io ho detto quanto ho potuto. In ogni modo, la sera stessa, William Larkins venne con un gran cesto di mele della stessa specie, almeno uno staio, e io fui grata, e scesi su a parlare con William Larkins, e dissi ogni cosa come voi potete immaginare. William Larkins è una così vecchia conoscenza. Sono sempre lieta di vederlo. Ma tuttavia scoprì poi da Patty che William aveva detto che erano tutte le mele di quel genere che il suo padrone avesse. Lui le aveva portate tutte, ora non ne rimaneva al padrone neanche una da rosolare o da bollire. Non sembrava che a William gliene importasse, era così contento al pensiero che il padrone ne avesse vendute tante. Perché a William, sapete, si preoccupa più del guadagno del suo padrone che di qualunque altra cosa. Ma Mrs. Hoyt disse che ci era rimasta proprio male, che fossero state date via tutte. Non poteva sopportare che il padrone non dovesse più avere torte di mele questa primavera. Egli raccontò questo a Patty, ma le disse di non farci caso e di non farne assolutamente parola a noi, perché non si poteva evitare che Mrs. Hoyt si arrabbiasse di quando in quando, e purché se ne vendessero tanti sacchi non aveva importanza chi mangiasse il resto. E così Patty mi riferì, e io rimasi proprio confusa. Non vorrei che Mr. Knightley ne sapesse qualcosa, ne diverrebbe così. Volevo nasconderlo a Jane, ma sfortunatamente mi era sfuggito di bocca prima che me ne avvedessi. Miss Bates aveva appena finito che Patty aprì la porta, e i visitatori salirono le scale senza dover porgere attenzione a un racconto continuato, perseguitato soltanto dai suoni, dai convenevoli che Miss Bates emetteva ogni tanto. «Vi prego di stare attenta, Mrs. Weston, c'è un gradino alla svolta. Vi prego di fare attenzione, Miss Woodhouse, la nostra scala è piuttosto buia, più buia e stretta di quanto non si desidererebbe. Miss, il gradino alla svolta». L'aspetto del salottino, quando entrarono, era l'immagine della tranquillità. Mrs. Bates, privata della sua occupazione ordinaria, sonnecchiava a un canto del focolare. Fran Churchill, a una tavola presso di lei, era tutto affaccendato con gli occhiali. E Jane Fairfax, poggendo loro il dorso, era intenta al suo pianoforte. Per quanto occupato, il giovane riuscì tuttavia a mostrare un volto lietissimo al rivedere Emma. «Questo è un piacere», disse egli in tono piuttosto basso, «che viene perlomeno 10 minuti prima che io m'attendessi. Mi trovate che mi ingegno di riuscire utile». E ditemi se credete che ci riuscirò. Come? Fece Mrs. Weston. Non avete ancora finito? Di questo passo non vi guadagnereste bene la vita come operaio argentiere. Non sono stato a lavorare senza interruzione, gli rispose. Ho aiutato Miss Fairfax a cercare di sistemare il suo piano che si muoveva un poco. Credo perché il pavimento non è perfettamente pari. Vedete che abbiamo messo un po' di carta sotto una delle gambe. Siete stata molto cortese a lasciarvi persuadere a venire. Avevo quasi paura che tornaste a casa in fretta. Egli fece in modo che Emma si sedesse presso di lui ed ebbe da fare abbastanza mentre sceglieva per lei la miglior mela cotta e cercava di farsi aiutare o consigliare da lei nel suo lavoro, finché Jane Fairfax fu pronta a sedersi di nuovo al piano. Che non fosse pronta immediatamente, Emma sospettò che dipendesse dallo stato dei suoi nervi. Non aveva posseduto lo strumento da abbastanza tempo per toccarlo senza emozione. Doveva calmarsi, sì, da poter suonare con la sua consueta maestria. Ed Emma non poté non aver compassione di tali sentimenti, qualunque fosse la loro origine, e non poté che decidere di non esporle più al giovane che li sedeva accanto. Alla fine Jane cominciò, e sebbene le prime battute fossero rese con fiacchezza, a poco fu resa giustizia alle qualità dello strumento. Mrs. Weston era rimasta incantata prima, e di nuovo lo fu. Emma si unì a lei in tutte le sue lodi, e il pianoforte, con tutto il debito discernimento, fu giudicato dei più promettenti.